Infatti, ogni pontefice, preso di tra gli uomini, è costituito in favore degli uomini nelle cose che riguardano Dio, perché offra doni e vittime per i peccati, essendo capace di usare indulgenza per gli ignoranti e gli sviati, dal momento che anche egli è avvolto di debolezza. E a motivo di questa deve offrire sacrifici per i peccati, come per il popolo, così anche per se stesso. E nessuno si prende l'onore da se stesso, ma quando è chiamato da Dio, così come anche Aronne. Così anche Cristo non glorificò se stesso nel divenire gran sacerdote, ma lo fece sacerdote colui che gli disse: «Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato». Come anche in altro luogo dice: «Tu sei sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedec», il quale, nei giorni della sua carne, implorò e supplicò con grida veementi e lacrime colui che poteva salvarlo da morte, e fu esaudito per la sua riverenza. E imparò da ciò che soffrì l'obbedienza, pur essendo figlio, e perfezionato diventò per tutti quelli che gli prestano obbedienza autore di eterna salvezza, proclamato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Intorno a ciò il discorso per noi si fa abbondante e difficile da esporre, perché siete divenuti pigri nell'ascoltare. Infatti, mentre per il tempo dovreste essere maestri, invece avete nuovamente bisogno che uno vi insegni i rudimenti degli oracoli di Dio, e siete diventati bisognosi di latte, non di cibo solido. Infatti chi prende il latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è un bambino. Invece il cibo solido è dei perfetti, i quali per la consuetudine hanno i sensi allenati al discernimento del bene e del male.